La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. L'articolo 30 riguarda i figli e sancisce l'importantissimo diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. È interessante notare come il Costituente abbia posto prima il dovere e poi il diritto dei genitori, proprio perché l'interesse è del minore e poi viene l'interesse e il diritto del genitore. Sotto questa formula abbastanza chiara, abbastanza netta, quindi di grande riconoscimento, c'è tutta la questione dei figli cosiddetti illegittimi, come si chiamavano allora, cioè i figli nati fuori dal matrimonio. E infatti questo diritto dovere è riconosciuto anche se nati fuori dal matrimonio. Qual era il problema? Il problema era proprio del riconoscimento dei figli illegittimi, perché da un lato c'era la componente cattolica che voleva mantenere l'integrità della famiglia tradizionale con i figli nati all'interno del matrimonio, ma c'era invece tutta la parte laica dell'Assemblea Costituente che si poneva il problema di come trattare i figli illegittimi che spesso all'epoca erano trattati in maniera deteriore. Siamo ancora, ricordiamolo, nell'epoca in cui si lasciavano i bambini appena nati nei conventi di clausura. Ecco allora che il terzo comma pone un altro importantissimo riconoscimento. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, formula di compromesso, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. Perché compatibilmente? Perché il Costituente sa che in quella struttura sociale dell'epoca non poteva imporre la convivenza forzata dei figli nati fuori dal matrimonio e dei figli nati nel matrimonio, e quindi usa questo avverbio anche qui di grande compromesso fra laici e cattolici. Interessante anche l'ultimo comma, perché rinvia la legge su un altro tema importantissimo, la ricerca della paternità. Consentire la legge di prevedere modalità, termini e limiti per la ricerca della paternità, anche lì era una grandissima innovazione, perché all'epoca sembrava un tabù poter pensare che la paternità non fosse quella legittima e presunta nell'ambito della famiglia. Anche quindi l'articolo 30 sconta le difficoltà sociali, le difficoltà politiche dell'epoca per cambiare la società italiana e quindi cercare di dare piena dignità ai figli nati fuori dal matrimonio.